versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:34 minuti 15 secondi, quindi diretta da Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda il numero di telefono 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, poiché molti ascoltatori giustamente dicono non è che puoi fare tutti i giorni solo cose che non vanno, e fare il criticone ogni tanto segnala anche qualche cosa di nuovo, di positivo che succede in Italia, ma non per il gusto di essere ottimisti a oltranza. Però è anche vero che poi c'è chi trova delle idee nuove per tentare di affrontare il guai con cui siamo tutti alle prese ogni giorno. E allora abbiamo scelto proprio a questo fine un'idea che è nata a Torino, la città in cui sono nato, e vi chiedo subito, voi sapete che da anni è una tradizione, no, del volontariato, vi sarà capitato nei supermercati quando si tengono le giornate organizzate dai volontari per fare la cosiddetta raccolta alimentare, cioè i volontari si segnalano al supermercato all'inizio, vi consegnano le buste e dopodiché il vostro buon cuore con conserve alimentari e così via contribuire al sostegno di chi non ce la fa. Cioè, stiamo parlando di chi è proprio sotto la soglia della povertà assoluta, non ce la fa letteralmente a mettere insieme il pranzo e la cena. Allora, se quella è una modalità tradizionale, per così dire, la domanda che vi faccio è, per sapere come la pensate, vi potrebbe interessare, cioè voi usereste un sistema che in tempo reale, sul telefonino, vi avvisa da una certa ora in avanti che gli esercizi commerciali di prossimità, quelli della zona in cui vivete e così via, per smaltire, no? Stiamo parlando in questo caso di prodotti freschi, mentre quelli della raccolta al supermercato sono classicamente quelli che si possono conservare, che si comprano e si danno ai volontari. Ma invece usereste un'applicazione che sul telefonino a un certo punto vi segnala e dice questo è quel prodotto fresco, siccome tra X chiudiamo, questo è il prezzo a chi interessa. È una modalità A di mercato, per così dire, perché ovviamente stiamo partendo da una logica che è quella di un'offerta diretta, no? Dell'esercente al potenziale consumatore. Certo, a prezzi più bassi, perché ovvio si tratta di smaltire prodotti che altrimenti vanno sprecati, in più con una modalità interessante per il prezzo. Allora, siccome viviamo in un mondo che fa fatica, e lo dico con il rispetto per i tassisti fedelissimi che ci ascoltano, a trovare regole giuste, per esempio per usare le app telefoniche per intermediare servizi di trasporto, fatica a trovare le regole perché poi la politica è latitante e non si riesce a capire se abbia ragione chi protesta con la vecchia legge o chi dice no, c'è un'innovazione, noi la usiamo e non siamo fuori legge. La politica dice ma poi latita per trovare le giuste regole per incrociare innovazione tecnologica e convenienza dei clienti e contemporaneamente rispetto dei diritti, rispetto a chi ha una licenza e l'ha strapagata. A Milano costa 170-180 mila euro una licenza. Allora, parto da questo esempio di Uber perché in questo caso usare la tecnologia di cui disponiamo senza farne pieno uso, quella dei telefonini, di smartphone, ciascuno utilizza, se va bene, nella media il 10-15% di tutto quello che può fare un telefonino, non lo utilizziamo per pagare, per esempio, mentre altrove in altri paesi ci sono degli intermediari finanziari che disintermediano le banche e utilizzano il chip telefonico per fare pagamenti. Da noi, in un paese iperbancario, questo non lo abbiamo, altro errore che ovviamente vi costa, come è evidente, come consumatori. Ma utilizzarlo invece a questo fine, unendo insieme quindi tre finalità, quella di un approccio diretto tra chi consuma e ovviamente l'esercenza. Secondo, quello di una finalità sociale, perché è ovvio di questo si tratta. Terzo, quello di evitare sprechi, gli sprechi alimentari. Allora, l'idea nasce intorno a queste coordinate. Voi telefonate per dire come la pensate, ma abbiamo, per così dire, coloro grazie ai quali quest'idea prima è nata e si è trasformata quindi poi in un'app, E poi è stata promossa tra i commercianti, e quindi i nostri ospiti oggi pomeriggio, che io ringrazio, sono Francesco Ardito, che è l'ideatore di questa app. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio e un saluto a tutti gli ascoltatori. E la presidente dell'ASCOM di Torino, quindi l'Associazione dei Commercianti di Torino, Maria Luisa Coppa. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio Oscar Giannino, che risento volentieri. Grazie anche a lei. Allora, cominciamo con Francesco. L'idea come vi è venuta, quando, come, perché, avete trovato soldi per svilupparla, è stata ipereconomica, com'è successo? Perfetto, l'idea è nata dall'osservazione personale sul campo di questo spreco, diciamo, l'idea nasce proprio come un'idea, chiamiamola pure sociale. Io vedevo in prima battuta quanto cibo veniva buttato dalla panetteria, che aveva ancora 5-6 pezzi di pizza in prossimità della chiusura, o dal girarrosto, che aveva ancora 5 polli che giravano e mancava un quarto d'ora, ma a finire pioveva tutto il giorno, i clienti non arrivavano, e così via, inutile dilungarmi. Quindi non ultimo, diciamo, la leva che ha fatto scattare l'idea è stata proprio un bel bar che aveva in prossimità della chiusura ancora penso 10-15 croissant messi lì nella vetrinetta. Allora, chiedendo più volte che fine facesse questo cibo perfettamente edibile, come dicono quelli che sanno parlare, perfettamente in forma, consumabile, ma che stava per essere buttato nella spazzatura in molti casi, non mi dilungo, ma abbiamo studiato il fenomeno, abbiamo detto c'è una talmente grossa diffusione di smartphone e ci sono nelle grosse città migliaia di persone che abitano a pochi passi, a centinaia di metri, 200-300 dal punto vendita. Perché non consentire a questo negoziante, che diciamo in questo momento ha il problema di dover buttare questi 5 polli che stanno girando lì e fra un po' chiude, con una quello che voglio ribadire è con una estrema semplicità, perché il trucco è qua, non parliamo degli informatici, degli esperti, poter consentire a questa persona di schiacciare un bottone, proprio solo un bottone che dice, dopo aver detto dov'è il negozio e che tipologia di negozio è, chiaramente, e così come il cliente, aver detto dove risiede il cliente e che tipologia di negozi, da che tipologia vuole ricevere le offerte, finito, diciamo in 2 minuti di lavoro propedeutico all'uso, il cliente non fa più nulla, tiene lo smartphone acceso e quando gli arriva l'offerta ha solo da sentire il bling e leggere. Il negoziante ha un unico pulsante, è come fosse inviare, diciamo, il vecchio SMS, scrive venite da me che per 20 minuti ho ancora 5 polli, anziché 10 euro in vente il prezzo, ve lo metto a 4, non lo so, non è un mio problema. No, ecco, certo. Che in questa situazione il negoziante, veramente noi diciamo che il nostro www di il progetto si chiama www.lastminutesottocasa.it, è proprio un last minute appunto sotto casa. L'idea è quella che il negoziante che stava probabilmente per buttare quel prodotto ci guadagna, quindi il www è un win-win-win, il negoziante incassa dei soldi che non avrebbe incassato, il cliente compra un prodotto che non avrebbe avuto intenzione di comprare forse fino a 5 minuti prima, e il pianeta soprattutto ringrazia. Mi fermo perché darei volentieri la parola alla Presidente Coppa, ma mi piace ribadire un concetto, siamo partiti da pochi mesi a Torino, l'applicazione sta correndo veramente tantissimo, c'è tanto seguito, siamo felici, però il primo feedback che stiamo raccogliendo dai negozianti che la utilizzano non è tanto il fatto che questi negozianti riescano a incassare comunque una cifra, aspetto importante, ma il fatto che grazie a questo fanno entrare nuova gente nel punto vendita. Io che non avevo intenzione di comprare quel pollo, sto tornando a casa, mi accingevo ad andare a cucinare per 2 ore o un'ora la pasta e non so cosa, vedo l'offerta, io vado a prendere il pollo. Quindi l'aspetto molto interessante, al di là dell'aspetto win-win-win di cui parlavo, è veramente l'aspetto di poter portare nuova gente nel punto vendita. Se poi sono bravo a gestire, mi presento bene, il prodotto è buono, da domani lo rimetterò a pezzo pieno quando non ho eccedenze. Questo è un po' molto rapidamente. Molto rapidamente. Francesco, prima di arrivare al presidente, ma l'idea a chi è venuta però? Da smanettoni oppure da gente... No. È venuta a me perché io sarà un paio d'anni che osservo, così come veramente in maniera casuale osservo questo fenomeno, quindi capitava a me andando a fare la spesa, soprattutto in panetteria, il progetto è partito sulle panetterie, di osservare veramente questo fenomeno di spreco di, non so, c'erano ancora 3 arancini, 2 pezzi di pizza bianca, 5 alle cipolle e 4 croissant, e io chiedevo sempre ma che fine fa sta roba, quindi ho detto io mi occupo di innovazione, siamo dentro l'incubatore del Politecnico di Torino come progetto, che ringrazio anche per il supporto che ci dà, e diciamo pure che 448 in un momento ho detto sta roba deve finire, diamo la possibilità di informare chi sta sotto casa, perché certo, il cliente decide a che distanza da casa propria ricevere le offerte. Perfetto, nel frattempo do la risposta a Marco, che mi dice che sono mona perché non ho capito che oggi salta l'euro. Credo, Marco, perdona perché io non insulto mai, forse hai capito male. Ti invito anche a non cadere nella trappola dei media che hanno caricato questo incontro di oggi della BCE a Napoli di chissà quali aspettative, perché vi hanno annunciato che la Francia rompe le regole dell'Europa e voi ci cascate. Ma qua, cioè, vuol dire, non era chiaro già da mesi che questo governo ha deciso di non fare altri passi per la riduzione del deficit? Non lo avevate capito? Avete visto una spending review attuata? Cioè, che cosa è successo? Non avevate capito come sta la Francia? Ecco, perdonate, quindi l'euro non salta. Chi ha sentito la conferenza stampa oggi di Draghi ha sentito, c'è una nuova batteria tecnica di misure che spiegherà tecnicamente come e quali tipi di ABS per circa 1.000 miliardi, fino a 1.000 miliardi di euro, può comprare, vuole comprare la BCE insieme ai covered bond. Questo lo sentirete meglio dalla trasmissione che viene dopo con Sebastiano Barisoni. Aggiungo anche, e questo è sbagliato secondo me, che Draghi ha detto che l'euro è irreversibile. Lui parla ai politici che vi illudono dicendo che state vincendo la grande battaglia contro le regole dell'austerità europea e non capite che lo fanno per difendere la loro spesa da ruba tasse, grazie alle quali l'Italia è così. E voi ci cascate, voi pensate che siano i tedeschi cattivoni quelli a cui dovete il fatto che questa spesa di latrocinio, 30 miliardi di acquisizioni nelle partecipate locali che la politica non tocca, 10.000 IRI locali che la politica non tocca, i costi standard della sanità che vi hanno promesso che venivano introdotti e che in realtà sono una presa per i fondelli. Sapete quanto sono solo i costi delle acquisizioni della PA in ogni anno? 140 miliardi, e tre volte che i commissari alla spending review vi spiegano ai partiti e ai governi come fare e i partiti non lo fanno. E voi credete che il problema sia l'euro che salta? Pagate più tasse, va, così sarete felici di farlo per colpa dei tedeschi. Io ragionevolmente penso invece che idee come quella di cui parliamo oggi servono concretamente nel breve a risolvere un po' di problemi, quelli dei commercianti sfiniti, uno, per le tasse che gli si chiede di pagare sempre di più, due, per quelli che hanno pochi soldi e utilizzando quello che hanno quasi tutti, gli smartphone, compresi i più poveri, utilizzandoli al meglio. Sì, difendo questa linea, va bene? Voglio occuparmi non delle frottole che leggete sui giornali, di una ne abbiamo parlata ieri, non ci voglio tornare sopra sul TFR in busta paga, se avete capito come la penso, visto che su 26 miliardi di TFR ogni anno lo Stato se ne piglia 6 miliardi che requisisce all'INPS per fare spesa corrente, capite? E poi qui 5 miliardi e mezzo per quelli maturati per i dipendenti pubblici non li accantona. Ecco, beh, poi voglio vedere se lo Stato li tira fuori. Scusate, e torniamo invece al tema di oggi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta per parlare di questa idea. A Torino si sta diffondendo un'app che informa i consumatori del commercio di prossimità del fatto che le scorte di alimentari, quelle del Dairy, quelle che scalano di giorno in giorno, se non sono ancora esaurite, prima della chiusura vi danno un segnale di prezzo, voi decidete. Allora, il presidente dell'ASCOM, Maria Luisa Coppa, che dice di questa idea? Vabbè, dico che è molto carina, intanto perché è un'app che tocca le piccole imprese e devo dire non spesso non si pensa alle piccole imprese, quindi questo direi che è un'idea molto carina e naturalmente è un'applicazione che credo sia molto interessante anche per i consumatori. In un clima naturalmente economico di grosse difficoltà, come lei più volte ha ricordato, dove sia le imprese che le famiglie non hanno assolutamente nessun centesimo da perdere. Vorrei ricordare che i nostri negozi, il pane, le cose che rimangono spesso non le buttano via, ma hanno comunque le famiglie bisognose, le persone anziane, eccetera, quindi fanno un ruolo sociale che spesso passa assolutamente inosservato per questa quotidianità, ma certamente in questi mesi il recuperare 20, 30, 40 euro a fine giornata credo che sia molto importante per le imprese e lo è altrettanto per le famiglie che certamente non passano un buon periodo. Allora io credo che stiamo finendo davvero un'era di una società dei consumi sprecona. Siamo molto più attenti all'ambiente, molto più attenti agli sprechi, come abbiamo, come ha raccontato molto bene l'amico Ardito, e quindi ritengo che questo sia un progetto che veramente dia una risposta a queste esigenze. Allora, c'è chi tra gli ascoltatori ci chiede di ripetere il nome del sito per capire meglio come funziona. Il sito è www.lastminutesottocasa.it. Sentiamo un ascoltatore come la pensa. Gino da Bologna, prego Gino. Sì, grazie, buonasera. Buonasera. Anzitutto i complimenti al signor Oscar. No, non ne merito, andiamo al punto, non merito super, complimenti. Super no, complimenti. Super. Andiamo al punto. Che pensa dell'app? Ah, dico di più è il migliore. Ascolta, sì. Pensa che è una cosa. No, Gino, vai al punto. È una cosa super questa. Vai al punto. Che dovrebbe arrivare anche qui a Bologna. Dunque, le dico ecco. Che ha già nei supermercati qui sotto casa Coop, Conat, non c'è questa app, non lancia nessun messaggio, però ci sono i prodotti che scadono domani e dopodomani già scontato il 50-70% che il pensionato o chi ha un po' di tempo vai il giorno prima. Però Gino, qui non stiamo parlando della grande distribuzione, ma stiamo parlando, questa piccolo, è la differenza, no? Del piccolo commercio di prossimità, piccolo, quello sì, che fatica piccolo, ancora di più. Sì, ma, sì, del piccolo negozio, però anche sa, ormai il Conad sotto casa è un piccolo, non è un grande negozio, non certo. È un palo del supermercato, anche nel supermercato fanno questa cosa qui. Comunque io mi complimento di questi signori che l'hanno fatto e spero che a Bologna sì, tanto questa qui è una cosa se si vuole fare velocissima. Va bene. La domanda che a questo punto faccio a Francesco Ardito, per voi che l'avete inventata, per così dire, ma voi cosa avete? Condividete poi una banca clienti che profilate e usate per altre cose? Ma noi appunto mi piaceva, ringrazio la Presidente Coppa che ha sposato questa idea fin dall'inizio e mi piaceva appunto ripetere che è www.lastminutesottocasa.it. No, una precisazione solo per l'ascoltatore che ha appena chiamato, questi negozi benissimo fanno a lasciare lì diciamo la zona con i pacchetti, con i prodotti in scadenza, è giusta la precisazione di Oscar Giannino, noi ci rivolgiamo ai piccoli medi negozianti di zona, ma soprattutto quel che è importante ribadire è l'effetto, chiamiamolo sorpresa su cliente. Se io so che il supermercato tutte le sere ha il prosciutto messo lì, o il negoziante che tutte le sere alle 6 svende un certo prodotto, non è interessante né per soprattutto per il negoziante. La nostra cosa è proprio come dicevo prima, io non so che sta arrivando quell'offerta, il negoziante in quel momento ha quella criticità su un prodotto che vuole diciamo far andare via, ed ecco che la cosa diciamo carina dell'idea è questa, è quella del, come si dice, della sorpresa che arriva al cliente. Per rispondere a quella domanda, noi diciamo che noi abbiamo la nostra banca dati, chiaramente tutti i negozi suddivisi per categoria merceologica e tutti i clienti che vanno a segnalare quale tipologia di mercato, di settore vogliono seguire, da quale vogliono ricevere le offerte. Noi l'uso che ne facciamo è esclusivamente quello di creare il link tra il negoziante e il cliente che abita in zona. Ma chiedo alla Presidente Coppa, ma un'iniziativa di questo tipo nella sua associazione è esportabile anche in altre città, ne diventate promotori, come può funzionare? Presidente. Presentata proprio questa settimana in commercio nazionale alla nostra convention che peraltro lei Oscar Giannino conosce bene, quindi potrà essere messa a disposizione di tutte le ASCOM territoriali. Voglio però ricordarle una cosa che segue un po' le cose di apertura che lei ha detto. Noi siamo fortemente impegnati verso l'innovazione delle imprese perché credo che i corpi intermedi in questo momento abbiano un ruolo importante ed è quello di traghettare quelli meno potenti verso l'innovazione, verso un mercato nuovo. Questo è una cosa semplicissima, non è che con questa applicazione noi insegniamo ad andare su internet o chissà che cosa, però spingiamo fortemente perché non possiamo perdere, le nostre piccole imprese non possono perdere quella fetta di mercato ormai sempre più importante che va sul digitale e che quindi noi dobbiamo condurre da esempi come questo estremamente semplice e fattibile ad esempi molto più importanti come il sito e altre cose per le quali noi stiamo insistendo fortemente perché sta cambiando il mercato, stanno cambiando i clienti, devono cambiare le imprese e naturalmente una organizzazione come la nostra con commercio ha la responsabilità di traghettare le imprese, certo, verso un futuro. Verso la sopravvivenza prima e poi verso un futuro. Allora io ringrazio il presidente di Asco Maria Luisa Coppa di Torino, Francesco Ardito, e ringrazio gli tanti sms di sostegno a quello che ho detto, e rispondo anche a chi mi dice che prima bisogna essere coerenti, poi si possono fare le prediche. No, perché sulla spesa, le tasse, eccetera, eccetera, il mio mestiere è quello di dire ciò che penso, altrimenti cambiate radio!